E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia con Deborah Rosciani. Ed eccoci qui, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia per fare il punto della giornata economico-finanziaria che, nonostante sia di parziale festività almeno a Milano perché è Sant'Ambrogio e qua naturalmente le strade sono sgombre già da oggi, per fortuna almeno dal punto di vista, come dire, dell'inquinamento, perché come sapete stiamo andando incontro anche, come sapete magari il Sud Italia non lo sanno e anche poco interessa, andiamo comunque incontro a giornate di stop totale dell'auto, magari questo stop grazie alla festa oggi ha fatto un po' bene anche al clima. Detto questo, che è tutto molto folcloristico e vi interessa poco, oggi la giornata economico-finanziaria è stata decisamente di nuovo piuttosto ricca di notizie, cominciando da quello che è successo in borsa. La giornata dopo lo stop di ieri era cominciata molto bene. E tutto questo anche in attesa del supervertice europeo che inizia domani e che dovrebbe definire delle misure chiare e precise per risolvere o almeno affrontare in maniera drastica la crisi del debito sovrano. È cominciato di nuovo poi nel pomeriggio a circolare tutta una serie, di indiscrezioni su un pessimismo tedesco relativamente alle risoluzioni da adottare. Questo che cosa ha fatto? Ha riprovocato una discesa della borsa che adesso si mantiene, e soprattutto una risalita dello spread, del differenziale di rendimento fra i nostri titoli e quelli tedeschi. Abbiamo un po' arrotondato le cifre perché siamo risaliti a 400 punti base e il rendimento del titolo a 10 anni è ritornato sul 6%, per cui livelli che ci infastidiscono un po', visto che eravamo scesi tanto, ma in ogni caso oggi ci siamo ritornati. Poi vedremo da Bruxelles qual è la vigilia di questo super incontro, visto che peraltro oggi è circolata anche una lettera scritta congiuntamente dal presidente francese Sarkozy e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, rivolta al presidente europeo appunto Van Rompuy, e vedremo che cosa propongono per risolvere questa crisi molto dura, molto pesante. Parleremo poi naturalmente anche della notizia che abbiamo sentito nel giornale radio. Sono cominciate in alcune commissioni appunto parlamentari, nella commissione bilancio in particolar modo, le discussioni per capire se la manovra Monti possa essere adottata integralmente così nella formulazione varata nel decreto legge di domenica, oppure, e chiaramente questa sarà la strada maestra, quali variazioni adottare sulla base delle richieste che vengono dalle forze politiche, dalle forze sociali, dai sindacati. E chiaramente uno degli interventi più attesi è quello relativo alla modifica del livello della pensione minima sulla quale appunto effettuare lo stop alla perequazione all'inflazione. Come sapete c'era il blocco previsto per gli assegni superiori a 935 euro, ovvero due volte il minimo. Adesso si vorrebbe aumentare questo livello, si parla di 1.400 euro, poi sentiremo appunto dal collega del Sole 24 Ore, Marco Rogaria, che appunto era discussione su questo, visto che ieri sera c'è stata anche l'apertura del ministro Elsa Fornero, che naturalmente ha accolto, ce lo ricordiamo anche nel suo pianto di domenica scorsa, l'enorme difficoltà sociale ad accettare questo tipo di misura. E però siccome come dire, l'aumento della soglia deve essere fatto a saldi invariati e la cifra della finanziaria complessiva deve essere quella che è stata stabilita domenica scorsa, si cercherà di capire dove attingere le risorse appunto per effettuare questa copertura. Parleremo poi di credit crunch, di mercato creditizio che stringe i cordoni sempre di più, non solo non eroga mutui alle famiglie, ma soprattutto non eroga finanziamenti, non eroga affidi alle aziende. C'è una situazione molto pesante che è stata denunciata da Confindustria Vicenza. Sentiremo più tardi il vicepresidente con delega alla finanza Luciano Vescovi, che ci racconta che tipo di risultato hanno raggiunto da un monitoraggio che hanno fatto. Parleremo della situazione di Vicenza, ma è una situazione che sicuramente potrà essere paragonabile alla situazione di tanti altri distretti industriali italiani. Un'altra interessante vicenda che approfondiremo poi è questa battaglia a distanza inevitabile, ce l'aspettavamo, tra Federpharma da una parte e l'AMPI, l'associazione delle parafarmacie italiane, dall'altra, perché nella manovra economica di Monti Si apre anche alla concorrenza il mercato dei farmaci di fascia C, quelli con prescrizione medica. Voi potete capire che tipo di presa posizione radicale che Federpharma ha preso, che parla di fine del sistema delle farmacie, di farmaci venduti nei supermercati. Insomma, a queste dichiarazioni della presidente Annalisa Racca di Federpharma, che ieri abbiamo ascoltato proprio a Focus Economia, oggi vuole rispondere l'Associazione delle Farmacie Italiane. Questi e tanti altri argomenti oggi, poi naturalmente la borsa, che in questo momento si avvia alla chiusura, manca ancora più di un quarto d'ora, con un calo di 1,5 punti. Milano è arrivata a perdere anche oltre 2 punti, stamattina è arrivata a guadagnare 1,5 punti, quindi davvero una giornata di nuovo sul lotto volante. Stamattina schizzavano di nuovo le banche perché si era alleggerita di nuovo la pressione sui titoli di Stato, poi quando è tornata banche di nuovo tutte giù, e adesso il calo pesante di Fondiaria che perde il 6%, che peraltro paga anche il fatto che presto uscirà dal listino per fare posto a una Grif a Ferragamo. E per, come dire, intanto le anticipazioni dei temi di cui parleremo è tutta. Adesso direi che possiamo andare con le notizie in breve. E naturalmente potete sempre scriverci alle 349-238-6666 quando sono a Focus Economia. Non mi ricordo mai di ricordarvelo, però vedo che siete lo stesso sempre molto attenti anche ad interagire con noi attraverso il nostro numero di SMS. Vi ricordo che, come gran parte delle trasmissioni di Radio 24, anche Focus Economia è su Facebook. Allora, da che cosa partiamo? Dall'andamento delle quotazioni, come sempre, delle materie prime. Oggi a New York, oro in rialzo a 1729,68 dollari l'oncia. Peraltro, balza il prezzo dell'oro a novembre e l'apprezzamento del metallo giallo si riflette sulle capienti riserve della Banca d'Italia. Lo ha comunicato oggi Via Nazionale, perché il valore delle riserve auree di Banca Italia il mese scorso ammontava 102 miliardi, con una rivalutazione nel mese di 5 miliardi e mezzo abbondanti. Dall'inizio dell'anno, come emerge dalle statistiche che sono state peraltro consultate e analizzate dai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore, spicca una rivalutazione di oltre il 34%, in termini assoluti circa 30 miliardi, pensate, quasi l'ammontare della manovra salva stati del Premier Monti. La Banca d'Italia ha in vari cavò in Italia e all'estero 2.451 tonnellate d'oro, quantitativo che colloca l'Italia al terzo posto al mondo fra gli stati sovrani per le riserve auree, dietro Stati Uniti e Germania. Incredibile. Il petrolio invece quanto quota oggi a New York? Sui 100 dollari al barile, tondi tondi. E abbiamo avuto oggi l'impennata del prezzo dei carburanti, un effetto che, come sapete bene, non è assolutamente riconducibile all'andamento delle quotazioni internazionali del greggio, ma bensì l'altra manovra è entrata immediatamente in vigore, l'aumento delle accise sui carburanti deciso dal governo Monti appunto nella manovra salva stati. E questa manovra che cosa ha portato? Che benzina e diesel sono saliti entrambi oggi sopra l'euro e 70 al litro. Lo spread lo abbiamo già detto, stamattina la situazione era partita in maniera molto calma, eravamo al di sotto dei 360 punti base, poi nel pomeriggio di nuovo impennata anche nel differenziale di rendimento fra i titoli decennali italiani e i titoli tedeschi, di nuovo sui 400 punti base. Poi lo ricorderemo, naturalmente questo non è stato determinato solo da un ritorno di tensione sui titoli italiani, ma anche dal fatto che oggi c'è stata una corposa asta tedesca che ha rifatto scivolare verso il basso i rendimenti dei titoli tedeschi. Non è che oggi le agenzie di rating siano state ferme, tutt'altro. Si è svegliata stamattina presto la cinese Dagong, che ha tagliato il rating sovrano dell'Italia a BBB da A-. L'outlook è negativo, dice l'agenzia, per via delle difficili prospettive economiche del paese. C'è da segnalare che si tratta della prima agenzia che fa perdere la A al nostro paese. E andiamo invece a Standard & Poor's, che ieri, come ricorderete, ha messo sotto osservazione negativa il rating delle economie europee, facendo fibrillare anche la Germania. Oggi Standard & Poor's è di nuovo intervenuta. Nella zona euro lo stato d'allerta resta molto elevato, lo ha detto in un'intervista al quotidiano Le Monde Jean-Michel Six, capo economista responsabile dell'Europa di Standard & Poor's, l'agenzia di rating che appunto minaccia di declassare 15 stati di Eurolandia, fra cui Francia e Germania. Dicevamo prima delle motivazioni per cui la borsa è ritornata a scendere nel pomeriggio. Perché? Perché Berlino è più pessimista della settimana scorsa su un possibile accordo complessivo nell'ambito del prossimo vertice europeo al quale la Germania parteciperà con la stessa linea del rigore espressa nei giorni scorsi. Sono più pessimista di una settimana fa sul raggiungimento di un accordo, ha detto una fonte dell'entourage governativo. Le discussioni dei giorni scorsi dimostrano che alcuni partner non hanno capito la gravità della situazione. Certo che attribuire queste dichiarazioni ad una fonte che poi non si conosce, di cui non si sa neanche il nome, e avere questo effetto in borsa sicuramente lascia un po' perplessi. La ricetta franco-tedesca per salvare l'euro potrà assicurare una stabilità temporanea, ma finirà per aggravare il problema fondamentale dell'Europa, la mancanza di crescita. Ci si mette anche il New York Times con questo giudizio impietoso in un editoriale. Il giornale appunto americano boccia il piano Merkel-Sarkozy che verrà presentato al Consiglio europeo di venerdì a Bruxelles. Dalla Germania parlavamo prima di quest'asta di titoli di Stato tedeschi, per la verità scadenze non decennali ma a 5 anni, che si è svolta questa mattina. La Germania ha assegnato 4 miliardi di euro di titoli appunto con scadenza quinquennale contro un massimo importo previsto di 5 miliardi. La domanda però che gli investitori hanno fatto ha superato abbondantemente gli 8 miliardi e mezzo, per cui niente a che vedere con la situazione che si era creata qualche giorno fa, quando addirittura la Bundesbank era dovuta intervenire per appunto sottoscrivere titoli in asta della Germania. Il rendimento medio è stato dell'1,11%, bassissimo. La produzione industriale tedesca ad ottobre ha segnato un rialzo mensile dello 0,8% dopo il ribasso del 2,8% registrato a settembre. È il primo aumento in 3 mesi ed è superiore alla stima media di un più 0,3%. Su base annua l'indice ha evidenziato una crescita del 4,1%. Abbiamo anche delle notizie dall'Italia, poi le approfondiremo. La produzione industriale ad ottobre è scesa dello 0,9% su settembre ed è scesa del 4,2% su base annua. Questa è naturalmente una rilevazione Istat che ha anche precisato che il ribasso tendenziale è il più forte da dicembre 2009. Oggi c'è stato anche un nuovo monitoraggio divulgato appunto dal sistema bancario che ha fatto sapere che i tassi di interesse applicati dalle banche sui mutui per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie sono aumentati ad ottobre al 3,81% in media dal 3,69% precedente, lo rileva Banca d'Italia per l'appunto. Facciamo un'ultima, scorriamo solo rapidamente un po' altre notizie relative alla cronaca prima di andare al primo approfondimento di oggi che riguarda le pensioni. Come sapete, sulla manovra la presa di posizione sindacale era abbastanza attesa ed evidente, forse ci si aspettava anche qualcosa di più drastico, ma in ogni caso non può mancare uno sciopero sindacale. CGIL e CISL UIL hanno proclamato una agitazione contro la manovra di 3 ore per lunedì 12 dicembre. Questo è quanto è emerso dall'incontro di questa mattina dei 3 segretari generali appunto dei sindacati. A sostegno delle richieste di modifica della manovra economica del governo, lunedì sciopero di 3 ore nei trasporti, lo hanno riferito unitariamente i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL, spiegando che sono escluse le attività di trasporto pubblico essenziale sottoposte alla regolamentazione della legge sullo sciopero, e sciopereranno invece per l'intera giornata di lunedì 19 dicembre i lavoratori del pubblico impiego di CGIL e CISL e UIL. La protesta è stata decisa anche in questo caso evidentemente contro la manovra economica. Nel settore privato invece, appunto, ricordiamo ancora, lo sciopero è stato proclamato per 3 ore lunedì prossimo 12 dicembre. Ci fermiamo, il primo approfondimento di oggi. Allora, parliamo di pensioni, ribadiamo ancora le caratteristiche della manovra varata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti in quello che ha definito appunto questo pacchetto, il decreto salva stati, una manovra da una trentina di miliardi complessivamente, che comprende 13 miliardi di tagli alle spese e 17 miliardi di nuove tasse. Ricordiamo ancora che in particolare sulle pensioni è stato previsto che il sistema contributivo venga esteso a tutti nella modalità prorata, e cioè chi è stato assunto prima del 1996 e dunque gode del sistema retributivo, quindi percepisce l'assegno sulla base percentuale dell'ultimo stipendio, le annualità dal 2012 in poi verranno conteggiate appunto con il contributivo sulla base, cioè dei contributi versati durante la vita lavorativa. Un altro intervento, che è quello che ha suscitato, come sapete, le prese di posizioni più forte, è stato quello dello stop delle indicizzazioni per le pensioni superiori a due volte il trattamento minimo, il famoso caso che ha provocato, come ricorderete, le famose lacrime del ministro del welfare Elsa Fornero. Su questo punto starebbe emergendo una proposta di novità molto invocata, appunto richiesta da più parti, sulla deindicizzazione delle pensioni, secondo la linea aperta dallo stesso ministro Fornero, che ieri sera peraltro ha partecipato alla trasmissione di Rai 3 Ballarò e si è dichiarata appunto disponibile ad un intervento migliorativo in questo senso. Ci potrebbero essere delle aperture, direi che possiamo sentire direttamente il ministro Fornero in questo estratto da Ballarò ieri sera, poi ci collegheremo con il collega del Sole 24 Ore Marco Rogari. È stato necessario aggiungere un pezzo che non chiamerei riforma delle pensioni, perché intanto riguarda solo due anni, che è particolarmente doloroso perché riguarda i redditi bassi, i redditi pensionistici bassi, e quindi se io trovassi altri soldi sarei felicissima, e credo che tutto il governo lo sarebbe, di ampliare la fascia di protezione, quindi di alzare un pochino quelle due volte il reddito minimo, che oggi è protetto dall'inflazione ma al di sopra del quale non c'è nessuna protezione. Su questo punto è aperta a suggerimenti anche delle forze politiche. Purché naturalmente si rispettino i saldi. Allora, sono talmente, condizionata da quello che ci accade intorno che invece di dire decreto salva Italia ho detto decreto salva stati. Marco Rogari, confusione in testa non ci manca, anche a noi. Beh, un po' di confusione c'è perché, innanzitutto, buonasera agli ascoltatori, perché le misure sono tante e hanno quasi tutte una portata significativa con ricadute sui contribuenti, sulle imprese. E infatti, allora andiamo a questo benedetto intervento sulle pensioni. Rispetto alla formulazione iniziale, che avrebbe dovuto portare un risparmio per quello che riguarda appunto il nostro bilancio di quasi 3 miliardi di euro, 2,89 miliardi, cioè bloccare la rivalutazione secondo il criterio appunto dell'inseguimento dell'inflazione per gli assegni pensionistici di importo superiore ai 935 euro, ovvero due volte il minimo, siccome molti appunto l'hanno definita una manovra poco equa che va a colpire persone che naturalmente percepiscono già un introito ridicolo rispetto alle esigenze finanziarie della vita di queste persone, evidentemente allora diciamo che c'è stato un po' di movimento perché la soglia potrebbe essere elevata. Intanto è vero che si potrebbe rivedere la soglia a 1.400 euro, Marco, e poi soprattutto quali risorse vengono trovate appunto per evidentemente garantire questa copertura? Questa soluzione è quella che sta prendendo corpo sempre di più con il trascorrere delle ore. Già ieri, come voi avete fatto notare, dal ministro del lavoro Fornero erano arrivate delle chiare aperture. Oggi i partiti hanno lavorato sotto traccia già per trovare un accordo al loro interno da codificare, alla Camera, dove in questo momento è cominciato l'esame del decreto sulla manovra Salva Italia, e tra l'altro la Commissione Lavoro della Camera, nell'esprimere il suo parere di merito proprio sul decreto, ha già indicato la strada, che sarebbe quella di far salire il prelievo sui trattamenti superiori tre volte il minimo, quindi come si diceva superiori a 1.400 euro. E ha prospettato anche due possibilità di copertura: o incrementare ulteriormente il prelievo già deciso sui capitali, i cosiddetti capitali scudati, che attualmente è all'1,5%, o in alternativa introdurre una stretta, un contributo di solidarietà sulle cosiddette basi pensioni, cioè i trattamenti, circa 500.000 trattamenti ancora in essere, che erano stati elargiti a coloro che avevano addirittura meno 15 anni di contribuzione negli anni d'oro della Prima Repubblica. Qual è secondo te la soluzione più vicina a poter essere adottata, a patto che naturalmente si trovi anche un accordo che vada bene a tutti sull'aumento di questa soglia? Perché effettivamente sull'aumento dell'aliquota rispetto ai capitali scudati all'1,5% ci sono state anche in questo caso delle prese di posizioni molto forti, anche se è un intervento che a molti non piace, perché addirittura io me ne sono occupata stamattina a Salvadanaio, Marco, qualcuno parla di illegittimità perché comunque è un intervento retroattivo, queste persone hanno già pagato, ma ricordiamoci che molti erano anche evasori, per cui non ci dobbiamo dimenticare, e ricordiamoci anche perché che per situazioni che vengono sanate alla stregua dell'Italia in altri paesi europei si pagano delle, come dire, delle cifre molto più pesanti, delle percentuali molto più pesanti. Mettendo insieme le percentuali ricavate dalle operazioni dello scudo, che erano tra il 5 e il 7%, l'aliquota pagata appunto sui capitali scudati, questo 1,5%, si arriva all'8,5%, che è ben poca cosa rispetto a quello che succede in tanti altri paesi. Detto questo, secondo te si andrà più su questa strada o più sull'intervento sulle pensioni baby? Beh, lì dipende molto, molto, io non, cioè, per garantire la copertura necessaria per ridurre ulteriormente, per alleggerire ulteriormente questo intervento sulle indicizzazioni, e quindi parliamo di almeno, adesso dipende da come verrà congegnato, di almeno un miliardo e mezzo, il contributo sulle baby pensioni dovrebbe essere un maxi contributo, visto che, come dicevo prima, le baby pensioni in realtà sono, almeno quelle in pagamento, sono 500.000. Quindi, cioè, allo stato attuale potrebbe anche venire fuori un combinato disposto tra le due misure, cioè un ritocco ancora ma limitato sui capitali scudati e in aggiunta un intervento sulle baby pensioni che andrebbe anche nella direzione dell'equità a cui si è più volte rifatto il governo Monti. Detto questo, molto dipenderà ovviamente anche dal Ministero dell'Economia e quindi dallo stesso Monti, che è ministro ad interim, perché su un punto non ci sono discussioni: i saldi della manovra dovranno rimanere assolutamente invariati. Quindi, una volta che partirà, ci sarà l'accordo tra i partiti e partirà l'istruttoria tecnica, diciamo, si capirà anche sulla base delle indicazioni del Tesoro quale potrà essere la strada più facilmente percorribile. Marco, oggi il tema fondamentale appunto è stato questo, si è parlato anche di una eventuale revisione anche delle condizioni per il pensionamento anticipato, per i trattamenti di vecchiaia, o quello che è stato stabilito almeno su quei punti c'è come dire ormai una decisione definita? Ma al PD, come sappiamo, i partiti hanno delle priorità. Al PD piacerebbe molto, ad esempio, che anche il criterio dei 42 anni per gli uomini e 41 per le donne per andare in pensione anticipata col solo canale contributivo venisse addolcito, ma credo che su questa questione non ci siano margini di manovra. Diciamo che la partita può restare aperta per quanto riguarda la manovra solo su tre misure: le indicizzazioni delle pensioni, per l'appunto, l'ICI, per la quale si sta cercando di individuare un possibile irrobustimento della detrazione che al momento è di 200 euro, che è stata prevista sulla prima casa, e su questo spinge soprattutto il PDL oltre al PD, e probabilmente ci potrebbe essere qualcosa in funzione della famiglia, non so se a livello di agevolazione o detrazioni, perché questa sarebbe la richiesta del terzo polo. Ma oltre questi tre piccoli ritocchi, credo che non per il resto c'è chiusura totale. Stavo leggendo i tantissimi messaggi che ci state mandando oggi. Mi colpisce l'ascoltatore che scrive: entro quando si possono cambiare le vecchie lire? Non c'è più nessuna possibilità di farlo. È stato definito anche questo dalle misure appunto del governo Monti, pertanto da due giorni è impossibile, qualora abbiate in casa scatole e valigie con le vecchie banconote, non potete più andare in nessun ufficio della Banca d'Italia, appunto del vostro capoluogo, perché non è più possibile fare questa operazione, hanno ormai perso completamente di valore. Detto questo, io sono stupita solo perché non è che il passaggio dalla lira all'euro lo abbiamo fatto ieri, 2 anni fa, 3 anni fa, ma sono mai passati una decina d'anni, per cui mi colpisce come il caso del pensionato di Genova che voleva cambiare qualcosa come 700 milioni di lire li ha portati in banca l'altro giorno con una pistola in tasca, perché naturalmente aveva paura che gli succedesse qualcosa, sentendo parlare della perdita di valore immediata del suo tesoro, ha ben pensato di portarlo in banca ed è stato anche arrestato, perché andava in giro appunto anche con quest'arma. Non ho capito bene se non ha visto un porto d'armi o quale fosse il motivo. Di fatto aveva 700 milioni delle vecchie lire in casa custodite da 10 anni, ma io mi chiedo se... Vabbè, detto questo, altri ascoltatori mi chiedono, e io li ringrazio per assegnarmi tutta questa autorevolezza, che cosa ne penso rispetto alle ricette che potrebbero essere adottate in questo vertice europeo per ridimensionare la portata di questa crisi. Cosa decideranno, mi chiede un ascoltatore, a livello europeo? Noi chiederemo qualche anticipazione a Beda Romano, più tardi collega inviato a Bruxelles, corrispondente adesso a Bruxelles del Sole 24 Ore. Una previsione difficile farla, anche perché abbiamo visto che ogni decisione presa scontenta sempre il mercato, e sicuramente quello che scontenta il mercato è la ostinazione, la rigidità tedesca di fronte a tanti aspetti. Poi comunque su questo ci soffermeremo a lungo con Beda. Un altro ascoltatore, Fabio, lo saluto, un accordo stile Germania e Regno Unito con la Svizzera sui capitali anonimi in Svizzera, appunto, se ne parla da tanto, l'Italia su questo fronte non ci serve, non vuole ancora adottare un'intesa di questo tipo. Fabio, anche qui le ragioni fondamentalmente non le capiamo, si preferisce scudare ricorrentemente, tra l'altro con aliquote ridicole rispetto a quello che invece gli altri paesi europei fanno, perché le batoste per i contribuenti che evadono e portano i loro capitali altrove sono molto più forti, e sicuramente se anche in questo caso ci fossero state delle penalizzazioni più alte per chi ha scudato in tempi recenti, magari non ci troveremmo oggi a parlare di questa crisi che ha pesantemente investito il nostro paese. Però insomma, col senno di poi è molto facile dire tutto. Adesso invece andiamo alla giornata di borsa. Allora, beh, che giornatina pure questa, partita molto bene con rialzi di un punto e mezzo stamattina, un buon buongiorno c'era stato per i listini del vecchio continente. Poi nel pomeriggio, ancora sempre per queste indiscrezioni, questi detti non detti che arrivano dalla Germania, le borse europee ci hanno ripensato, sono anche arrivate a scendere parecchio, Milano è arrivata a perdere oltre 2 punti, la chiusura è a meno 1,24%, per Piazza Affari Parigi segna meno 0,11%, Francoforte meno 0,57%, Londra meno 0,59%, Wall Street cosa succede? Che il Dow Jones è in ribasso dello 0,08%, il Nasdaq perde lo 0,4%, lo Standard & Poor's è meno 0,33%. Adesso i temi di Piazza Affari con Ceo Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore. Ceo, buona serata. Ciao, buona serata. Avrebbe da dire Ceo ciao, ma non è carino, non so se Sebastiano qualche volta te l'ha detto, non ci ho fatto caso. Ancora. Allora, peraltro Milano poco fa, prima delle aste finali, insomma, perdeva l'1,45, limita ancora il calo sul finire della giornata. È stata davvero curiosa questa giornata sul mercato, Ceo. Sì, perché si era aperta molto bene questa mattina, le borse sembrano ben intonate, insomma, in attesa speranzosa per il vertice che inizierà domani sera, che potrebbe dare poi una svolta alla crisi finanziaria europea. Invece poi è arrivata questa doccia fredda da Berlino e le borse hanno immediatamente imboccato la parabola discendente subito dopo pranzo, sono arrivate a perdere, come dicevi tu, quasi il 3%, e poi questo recupero nel finale che ha portato poi Parigi e Francoforte a ridosso della parità. Allora, no, stavo intanto ancora continuando a guardare i messaggi degli ascoltatori che ci chiedono quanto entreranno in vigore tutte le misure di Monti di cui parliamo costantemente, poi darò qualche precisazione. Allora, le banche stamattina partite tutte con il turbo, perché con lo spread che si chiudeva e il rendimento sul decennale appunto che scendeva, naturalmente immediatamente gli analisti contabilizzavano nel bilancio delle banche appunto il valore dei titoli di Stato, ma non solo, poi hanno di nuovo riperso tutto il terreno, però che vedo che sul finale almeno 3 o 4, anzi forse 5 hanno ripreso quota e sono proprio le banche, sì, i titoli migliori. Soprattutto sì, le popolari, diciamo, perché poi il Monte Paschi, che a parte che sconta altri motivi, ha perso il 5-6%, intesa comunque il 2-7%, invece CUB Banca con un balzo nel finale ha guadagnato il 4-1%, per l'istituto comunque non è una sorpresa questo trend positivo, considerato che da fine novembre ha recuperato il 17%, quindi sono sul mercato si ritiene che i fondamentali forse non fossero molto buone rispetto a quella che poi è la valutazione effettiva in borsa. Popolare di Milano ha guadagnato l'1,5%, anche qui ci sono altri aspetti, c'è la possibilità che alcune famiglie milanesi, ad esempio Borromeo possano rilevare alcune azioni della banca nell'inoptato dell'aumento di capitale. Ricordiamo anche che Rotelli, ad esempio, il re delle cliniche, è già all'1% della banca, insomma. Popolare Emilia Romagna più 1,3%, invece veniva da una serie nera che l'aveva portata a perdere più della metà della capitalizzazione da settembre, e oggi ha riguadagnato qualcosa. Sì, proprio da quando peraltro è entrata nel FTSE MIB, non ha fatto altro che scendere. Mediolanum più 0,99, Diasorin più 0,90, Azimut più 0,80, Luxottica più 0,70, Enel Green Power più 0,24, Mediobanca più 0,20. Mi sposto dall'altra parte della classifica, dove c'è una Fondiaria che naturalmente ormai ci ha abituato a queste prestazioni: o vola del 10%, o crolla del 5,78, oggi meno 5,82. Peraltro forse anche un adeguamento ai valori che gli analisti vedono nel momento in cui il titolo, presto, non so la data precisa, cioè non so se la conosci tu, uscirà dal listino. Quindi 19 dicembre. Prima di Natale esce per far posto ad una griff della moda. Sì, che è Salvatore Ferragamo, che quest'anno ha guadagnato quasi il 28% da quando è stata collocata, che se consideriamo l'andamento dei mercati è almeno nei numeri un'assoluta eccezione. Oggi Ferragamo ha guadagnato ancora più 3,5% per esempio, mentre Fondiaria Assai meno 5,8%, ma su questo titolo ci sono anche altre variabili al di là di quello dell'uscita dalle ex blue chip. Oggi era atteso questo vertice tra gli uomini della compagnia che fa capo alla famiglia Ligresti, Unicredito e l'ISVAP. Sotto i riflettori c'è questo veicolo in cui dovrebbero confluire le partecipazioni strategiche di Fondiaria Assai, veicolo in cui potrebbe entrare un investitore terzo e quindi migliorare il profilo patrimoniale della compagnia. L'ISVAP, che come sappiamo è l'autorità che controlla le compagnie assicurative, potrebbe tuttavia bocciare questo escamotage, quindi il mercato è molto nervoso e punisce duramente Fondiaria Assai. Allora andiamo a vedere adesso altri titoli. Tra gli altri ribassi, prima Monte dei Paschi l'abbiamo citata, meno 5,66, Ansaldo meno 4,51, Autogrill meno 3,53, Lottomatica meno 2,88, Intesa meno 2,77, Fiat meno 2,45, Generali meno 2,44. Stavo cercando in pregiro, perché è un caso del quale parlare, eccola qua, senza infamia e senza lode, meno 0,17%, CEO. Eh sì, comunque questa mattina aveva guadagnato parecchio, poi si è un po' sgonfiata insieme al mercato, comunque chiude praticamente pari. Qui il motivo è chiaro: l'offerta che hanno fatto, che ha fatto Gavio sia ai Benetton sia all'Igresti per prendere di fatto il controllo di Igli, che poi la holding che controlla in pregilo, valorizza in pregilo 3 euro. Guardando le performance di borsa di oggi, il titolo comunque vale ancora 2,2 euro, quindi il titolo non fa che adeguarsi a quella che potrebbe essere poi un'offerta che davvero avrà efficacia da parte dei Gavi. Tra i titoli del listino minore, qualche prestazione da segnalare? Sì, abbiamo il boom di Landi Renzo e di Pininfarina. Landi Renzo guadagna il 18,9%, Pininfarina il 6,7%. Cosa hanno in comune queste due società? Il fatto che comunque Pininfarina fa auto elettrica, Landi Renzo è tra i leader mondiali degli impianti a gas per auto, considerata l'autentica mazzata che abbiamo avuto sulla benzina tutti, e sul diesel. Esatto. Oggi la borsa ha deciso di scommettere su chi alimenta l'auto con fonti di energia alternative. E insomma, diversifichiamo. CEO, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona serata. Anche e buon a voi, lavoro. Grazie. Stavo sempre monitorando i tantissimi messaggi che ci state mandando oggi. Mi dispiace per gli ascoltatori che si sentono un po' turbati dai termini che uso, ma non mi sembra di aver usato tanto volare e crollare oggi, lo dico a Paolo, salutandolo affettuosamente, perché sul tema crollo oggi non c'era neanche nessun tipo di ragione per utilizzare un termine di questo tipo, un verbo di questo tipo. Su volare, stamattina qualche banca è volata letteralmente, dopodiché ha riperso terreno, quindi abbia pazienza col gergo finanziario e giornalistico, così almeno avete qualcos'altro a cui pensare se sentite i termini che usiamo, e magari lasciamo da parte il contenuto, forse vi aiuta a tranquillizzarvi di più. Di che parliamo adesso? Della produzione industriale italiana, che ad ottobre è scesa dello 0,9% su settembre, scendendo molto di più però se la statistica naturalmente ritorna indietro di un anno, su base annua meno 4,2%. E l'Istat che cosa ha fatto notare? Che si tratta del ribasso tendenziale più forte dal dicembre del 2009. Sui dati diffusi oggi, la nostra Anna Marino ha intervistato Gianpaolo Oneto, direttore centrale statistiche dell'Istat. Il dato di ottobre è negativo, indubbiamente c'è un calo dello 0,9 rispetto a settembre. A settembre anche c'era stato un calo, però quello era più fisiologico rispetto a una punta di agosto. Invece a questo punto il profilo piega abbastanza. Nella media degli ultimi tre mesi, noi tendiamo a guardare un po' la media degli ultimi tre mesi rispetto ai tre mesi immediatamente precedenti, cioè in questo caso agosto-ottobre rispetto a maggio-luglio, abbiamo un meno 0,5, che è un dato negativo, non drammatico. Una cosa un po' preoccupante è che il calo è abbastanza diffuso a livello settoriale. Certo, c'è una forte componente dell'energia che è specifica di ottobre, probabilmente anche dovuta a fattori climatici. Una cosa che si nota è che i beni di consumo sono la componente che stanno andando peggio, questo da alcuni mesi, gli intermedi cominciano anche a scendere, la produzione di beni strumentali è quella che tiene un po' di più, nella media degli ultimi tre mesi c'ha un segno più, con più 0,5. In totale, diciamo, come possono essere letti questi dati? Sono in chiaroscuro? Come possono essere letti? Sono sicuramente la conferma che, fra l'altro, come dire, conferma anche le indicazioni che venivano dalle nostre indagini sul clima di fiducia, sulle opinioni degli operatori, che c'è un peggioramento della congiuntura industriale. A questo punto, da alcuni mesi, il profilo della produzione sta piegando verso il basso, non è ancora una caduta, se lo sarà o no, naturalmente lo vedremo nel futuro. Ci sono vari segni di allarme, insomma, di una congiuntura che sta peggiorando in maniera piuttosto seria. Diciamo che la parte, i settori che sono più in sofferenza, la chimica, i tessili, gli autoveicoli, sono sempre quelli che sono colpiti per primi? No, in senso stesso non è detto. In questo caso abbiamo, appunto, c'è essenzialmente questo effetto di che sembrano penalizzati i settori che sono rivolti soprattutto ai beni di consumo, quindi può essere un problema di domanda interna, può essere anche un problema di posizionamento sui mercati esteri. Comunque i settori rivolti al consumo, alla produzione di beni di consumo, sembrano soffrire di più in questo momento, mentre appunto all'opposto ci sono quelli che producono beni di investimento, beni strumentali, che hanno una maggiore tenuta, probabilmente dovuta a una maggiore capacità di penetrazione su mercati esteri. E lasciamo la produzione industriale italiana, le questioni italiane, che però sono intimamente legate anche, come dire, alle vicende di Bruxelles, dove ci spostiamo adesso. Perché? Perché domani comincia il Consiglio europeo, in cui i capi di Stato e di Governo dovranno prendere decisioni forti, in particolare per quanto riguarda un vero e proprio nuovo patto sulle regole di bilancio che assicuri più disciplina e più convergenza da parte dei membri dell'Eurozona e che sia credibile per i cittadini, i partner internazionali e i mercati. Questo è il messaggio del Presidente della Commissione europea Barroso alla vigilia di un cruciale vertice europeo che si sta caricando di attese sempre maggiori, nella speranza che i leader riescano ad avviare una risoluzione della crisi finanziaria. Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Buonasera, Beda. Buonasera. Eccoci qua. Allora, Standard & Poor's oggi ha di nuovo, in un'intervista di un esponente molto alto dell'agenzia di rating, confermato e ribadito che lo stato d'allerta nella zona euro resta molto elevato. Dopo il monito già lanciato ieri, l'agenzia di rating ha messo sotto osservazione il giudizio di 15 paesi di Eurolandia, minacciando di togliere la tripla A anche a Germania e Francia. In tutto questo, appunto, raccontaci un po' qual è il clima di questa vigilia, di questo atteso vertice, che per altro si contraddistingue anche per la divulgazione di questa lettera al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy da parte di Nicolas Sarkozy e Angela Merkel. Qual è il contenuto, Beda? Ma francesi e tedeschi si sono incontrati lunedì per cercare di avere una posizione comune in vista di questo vertice, e la lettera di oggi non è che questa posizione, che in realtà era già stata presentata lunedì. Francia e Germania vogliono rafforzare la disciplina di bilancio, vogliono introdurre una semi-automaticità delle sanzioni per i paesi in deficit eccessivo, vogliono fondamentalmente rafforzare l'unione monetaria. Devo dire che la lettera in sé non rappresenta un enorme passo avanti rispetto a quello che già esiste, perché molte delle proposte franco-tedesche sono delle proposte che già esistono nel six pack, che è in realtà questo aggiornamento e miglioramento del patto di stabilità che entra in vigore nei prossimi giorni. La lettera di Sarkozy e di Merkel però rappresenta bene o male il punto di partenza del negoziato che si dovrà svolgere tra giovedì e venerdì. I paesi dovranno decidere se e come modificare il trattato e se e come aumentare la disciplina di bilancio. Per quanto riguarda la modifica del trattato, tutti sono più o meno d'accordo che bisogna farlo. Bisogna capire se si può fare a 27 o se si debba fare a 17. E poi bisogna probabilmente capire se si vuole fare una modifica del trattato in profondità e quindi con un processo di ratifica che rischia di essere lungo perché deve essere approvato da tutti i paesi dell'Unione, certo. Oppure invece una modifica rapida del trattato, più semplice naturalmente, ma anche meno in profondità. Per quanto riguarda invece la disciplina di bilancio, tutti sono d'accordo sul fatto che bisogna rafforzarla, ma anche qui bisogna decidere a chi spetta l'ultima parola. Spetta alla Commissione, in altre parole a un ente sovranazionale, oppure spetta al Consiglio europeo che raggruppa i governi? Nella lettera che è stata presentata dalla signora Merkel e dal presidente Sarkozy, Francia e Germania puntano su questa seconda opzione, ma non escluderei che durante i negoziati i tedeschi cambino posizione e decidano di avere un atteggiamento più duro su questo aspetto. Cosa che peraltro oggi il mercato ha già immaginato, Beda, perché ad un certo punto, in una giornata che stava andando piuttosto bene, sia sotto il profilo azionario che quello obbligazionario, è cominciata a riserpeggiare l'indiscrezione di un nuovo pessimismo tedesco sull'evoluzione appunto dei negoziati europei, e questo è bastato a far riscendere la borsa, quindi evidentemente qualche indiscrezione da questo punto di vista è circolata. Sì, la signora Merkel in questi anni ha avuto sempre in realtà due atteggiamenti. È stata relativamente aperta nel negoziato bilaterale con la Francia o bilaterale con altri paesi quando si è trattato di, come dire, raccogliere gli elementi di una possibile intesa. E poi bruscamente si è rafforzata e ha avuto posizione molto più dura nel momento in cui ha dovuto negoziare al tavolo del Consiglio europeo. Questo lo abbiamo visto sistematicamente in questi anni. E quindi mi viene naturale pensare che la Germania potrebbe avere tra giovedì e venerdì una posizione leggermente più dura di quella che è apparsa lunedì nell'incontro a Parigi con il presidente. Benissimo, ma non tanto. Beda, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, perché avrai sicuramente due giornate molto intense davanti a te. Intanto, a tutto questo atteggiamento della Germania, ricordiamo anche quello che ha detto di nuovo oggi Sarkozy: il rischio di esplosione dell'Unione Europea rimarrà concreto fino a quando l'accordo trovato lunedì, che abbiamo ampiamente descritto, non diventerà effettivo. Queste le dichiarazioni di Sarkozy. Focus Economia, seconda parte. Concludiamo il resoconto di questa giornata economico-finanziaria che ci ha manifestato un andamento di borsa su e giù, come spesso capita naturalmente. Oggi un po' più marcato questo andamento indeciso, perché le borse erano partite molto bene, poi hanno chiuso sul finale in negativo, e per la verità in termini anche migliori rispetto a come stava andando la seduta. -1,24% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Hanno perso anche le altre piazze europee: -0,11% Parigi, -0,57% Francoforte, -0,39% Londra. Anche Wall Street adesso è negativa, anche se in maniera abbastanza misurata, ma c'è un -0,3% sullo Standard & Poor's, Nasdaq -0,4%, Dow Jones sulla parità. Tutto questo in attesa dell'esito dei vertici europei dei prossimi giorni. Domani inizia il Consiglio europeo, in cui i capi di Stato e di Governo dovranno prendere, come abbiamo già raccontato prima con Beda Romano, decisioni forti, dovranno varare un vero e proprio nuovo patto sulle regole di bilancio, ma si preannunciano già delle nuove rigidità tedesche che oggi il mercato ha intercettato, finendo appunto in negativo. Per la verità l'impatto più evidente lo si è visto di nuovo sul settore obbligazionario, nell'ambito obbligazionario, perché il nostro spread, il nostro termometro preferito, mica tanto per la verità, è ritornato a 400 punti base. base, poi è ritornato leggermente al di sotto, ma comunque ancora 400 punti, la differenza di rendimento fra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi, e il rendimento del decennale è tornato sulle 6%. Tra l'altro ricordiamo che lunedì c'è anche la replica della famosa operazione finanziaria patriottica, ricordate il BTP Day di qualche giorno fa, lunedì c'è il Bot Day perché non si potranno acquistare a commissioni azzerate titoli di Stato sul mercato secondario, ma direttamente in asta, nell'asta di bot che è prevista e fissata per lunedì da parte del Tesoro italiano. Questi un po' i temi che hanno caratterizzato l'andamento della borsa. Noi abbiamo parlato anche delle novità che potrebbero arrivare nelle prossime ore relativamente alle misure di Monti, soprattutto sulle pensioni, ma a proposito delle misure di Monti ha fatto discutere anche in maniera abbastanza aspra, anche se a distanza, gli attori del settore farmaceutico in questi giorni per la appunto liberalizzazione della vendita dei farmaci che le misure prevedono e prevede appunto. Adesso andiamo ad approfondire proprio questo tema. E allora, secondo quanto dispongono le recenti misure del Presidente del Consiglio Monti, ma è anche Ministro dell'Economia perché ha assunto l'incarico ad interim, si aprirebbe alla concorrenza il mercato dei farmaci grazie alla liberalizzazione dei medicinali di fascia C, quelli che hanno prescrizione medica ma non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi, d'ora in avanti, secondo quanto prevede appunto la normativa nuova, potranno essere venduti anche fuori dalle farmacie, cioè nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione. Per la verità la vendita, almeno non so se in una prima battuta poi si prevede di allargare ulteriormente, sarà permessa solo nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, così da tutelare proprio le realtà più piccole. Questa introduzione, questa novità ha scatenato, come sapete bene perché l'abbiamo ascoltata ieri, le ire della categoria dei farmacisti, delle farmacie italiane. Abbiamo ascoltato appunto le dichiarazioni raccolte dalla nostra Alessandra Schepisi di Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma, che ha spiegato con grande chiarezza, adesso la sentirete, perché le farmacie italiane sono contrarie alla norma. La risentiamo. È una manovra iniqua perché questa manovra non crea sviluppo e occupazione, vuol dire la fine del sistema farmaceutico in Italia e vuol dire che ci sarà naturalmente, i medicinali non li venderanno più le farmacie ma li venderanno i supermercati. Non esiste nessun paese al mondo in cui la ricetta medica è uscita dalla farmacia. Non esiste nessun paese al mondo. Questo naturalmente porterà danni alla salute dei cittadini e soprattutto aumenterà i costi della salute. Quali danni economici invece prevede Federfarma? È logico, se i farmaci non stanno più nelle farmacie ma stanno al di fuori delle farmacie, noi dovremo, penso, mandare via delle persone, che sarà la cosa più dolorosa. Lei pensi, se soltanto ogni farmacia mandasse via una persona, 18.000 persone sarebbero sulla strada, quindi alla faccia di quelli che dicono che si creano nuovi posti di lavoro. Quali forme di protesta farete? Noi abbiamo un'assemblea nazionale domani e l'assemblea deciderà le iniziative da intraprendere contro questa manovra che è assolutamente iniqua, contro questa manovra che è devastante per il sistema farmaceutico italiano. Allora, che tipo di iniziative sono state prese non sappiamo, l'assemblea era oggi, però ci chiediamo se tutte queste persone che dovranno essere licenziate dalle farmacie italiane hanno intenzione di assumerle invece i parafarmacisti. Massimo Brunetti, segretario nazionale dell'AMPI, l'Associazione Nazionale delle Parafarmacie Italiane, buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, il mercato, il giro d'affari dei farmaci di fascia C nel 2010 è stato superiore ai 3 miliardi di euro e si stima che poco meno del 10% la quota di mercato detenuta fino ad oggi dalle farmacie possa passare di mano. Questo lascia capire il motivo per cui Federfarma si sia tanto arrabbiata, dottore Brunetti. Sì, incomprensibilmente peraltro. Perché? Sia sugli aspetti economici che occupazionali che di salvaguardia della salute dei cittadini. Vediamo nell'ordine. Per quanto riguarda la salvaguardia della salute dei cittadini, come afferma la dottoressa Racca... Sì, anche io ho trovato un po' forte questa affermazione, effettivamente. Improprio per due motivi fondamentali. Uno, perché obbligatoriamente, così prevede la legge, nelle parafarmacie è obbligatoria la presenza del farmacista nella dispensazione del farmaco al pari della farmacia, quindi professionalità uguale. Ma ancora di più, gli stessi farmaci che già oggi e domani anche con la fascia C si vendono nella parafarmacia, sono gli stessi che vengono venduti nella farmacia e sono soggetti alle stesse dinamiche di tracciabilità del farmaco che il Ministero della Salute impone a loro come a noi. Quindi lo stesso approvvigionamento, gli stessi farmaci, gli stessi controlli. Quindi da questo punto di vista il cittadino è garantito al 100%, non ci sono distinzioni di sorta. Ecco, quindi, se non ci sono distinzioni, no, solo per farlo capire ai nostri ascoltatori, dottor Brunetti, quindi qual è il prodotto farmaceutico che in assoluto è precluso adesso almeno nella vendita appunto alla parafarmacia, perché chiaramente sennò siete tutti uguali. Certo, oggi nelle parafarmacie sono presenti tutti i cosiddetti farmaci da banco di automedicazione che non hanno necessità della ricetta medica, né quella del sistema sanitario, né tantomeno quella cosiddetta bianca, quella che abitualmente riceviamo dai medici. Domani, con la riforma e quindi con i farmaci di fascia C nelle parafarmacie, potrà essere venduta all'interno di queste il farmaco che si accompagna con la ricetta medica bianca e non la ricetta medica del sistema sanitario. Questa è la novità che si introduce nel sistema. Benissimo, dottor Brunetti, io tra l'altro c'è anche adesso devo andare, anzi mi aspetti un momento, le faccio poi un'altra domanda, adesso dobbiamo sentire i suggerimenti perché è in viaggio, sì. Focus Economia. Allora, stavamo parlando della novità in arrivo sul come dire, vastissimo mercato farmaceutico, perché le misure di Monti aprono alla concorrenza il mercato dei farmaci grazie, come abbiamo spiegato all'inizio, alla liberalizzazione dei medicinali di fascia C, quelli con prescrizione medica ma non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi quelli su ricetta bianca, come ci spiegava poco fa il dottor Massimo Brunetti, segretario nazionale AMPI, l'Associazione Nazionale delle Parafarmacie Italiane, che oggi ha voluto rispondere alla presa di posizione molto rigida e forte fatta da Federpharma, che è invece l'organizzazione che rappresenta le 17.800 farmacie private comunali appunto che operano nel nostro paese. Questa liberalizzazione, dottore Brunetti, le faccio un'ultima domanda poi la lascio perché devo approfondire anche un altro argomento. La liberalizzazione, diciamo, della vendita dei farmaci era già stata oggetto di un provvedimento molto importante nel 2006, le misure di Bersani, il decreto Bersani all'epoca aveva liberalizzato appunto la vendita di farmaci senza obbligo di ricetta e il presidente dell'antitrust, Catricalà, che adesso fa un altro lavoro, definì quella delle parafarmacie la migliore liberalizzazione realizzata con un calo del 20% nei prezzi dei medicinali. Secondo lei questo trend potrà continuare, soprattutto che ricadute occupazionali prevedete nel vostro settore con questa misura? Perfetto. Il trend naturalmente potrà estendersi anche a quest'altra fetta di farmaci e quindi è prevedibile che lo stesso sconto che in questi 4 anni e mezzo oramai si è praticato sul resto dei prodotti che in questi anni abbiamo potuto dispensare e vendere si estende anche ai farmaci di fascia C. Che cosa significa tutto questo in termini di ricadute positive per i cittadini? Significherà che l'anno a conti fatti su quote di mercato esistenti e per il volume d'affari interessato i cittadini italiani potranno risparmiare nell'ordine dei 200 milioni di euro l'anno, si potranno aprire ulteriori esercizi cosiddetti parafarmacie, nella misura noi abbiamo stimato con i trend attuali intorno ai 3.000-3.500 nuovi esercizi, il che significa in soldoni circa 7.000 nuovi posti di lavoro per farmacisti e addetti. Tutto questo tuttavia non significa, come Federpharma vuole far intendere, minore occupazione nelle farmacie, perché tutto quello che abbiamo detto ora, vale a dire il 10%, gli sconti e quant'altro, non fa altro che perdere una fetta esigua di fatturato alle farmacie che entrano in concorrenza. Noi abbiamo valutato cosa significa per farmacia quel valore di cui abbiamo parlato prima, vale a dire quel 10% sui 3 miliardi e 100 che è quanto cuba la fascia C anno, significa che ogni farmacia mediamente perderebbe 380 euro mese di utile, il che significa per loro è insignificante. Mm-hmm. Per noi significa invece, per i nostri esercizi, la possibilità di poter guardare con certezza al futuro e non nella precarietà. Che allora, devo le ho fatto fare una replica molto più vasta delle dichiarazioni della dottoressa Racca. Le volevo, tanto per così continuare a mantenere questo squilibrio che mi contesteranno sicuramente, le dico che oggi in assemblea a Roma Federfarma, che appunto si è riunita, lo dicevamo prima, per discutere i contenuti della manovra del governo, ha avanzato questa proposta: aprire più farmacie in tempi brevissimi, creando così un vero sviluppo, nuovi posti di lavoro e un reale miglioramento del servizio sul territorio a tutela della salute del cittadino. Questa è la risposta ai timori sulla liberalizzazione che Federfarma stessa aveva, visto che la categoria era preoccupata appunto di questa emorragia di posti di lavoro che si sarebbe creata. Rispondono invece con addirittura la possibilità di aprire ancora più farmacie, per cui evidentemente non lo temono. Dottor Brunetti, la ringrazio per essere stato con noi. Soltanto una precisazione, 30 secondi perché ho un altro spazio. 30 secondi, sì. Soltanto sulla proposta di Federfarma, che può essere più positiva ma non necessariamente alternativa a questa, può essere complementare. Una sola cosa: la farmacia, fino a che non ci sono state le parafarmacie, non si sono mai sognati di fare sconti e quindi di andare incontro alle esigenze dei cittadini. È soltanto la presenza fisica di un concorrente sul territorio che ha imposto loro di operare degli sconti a tutto vantaggio dei cittadini. Mamma mia, quanto gli avete messo paura! Se si richiude il recinto intorno ad un unico soggetto, tutto questo viene meno. Grazie mille per essere stato con noi. Massimo Brunetti, segretario nazionale dell'Associazione Nazionale delle Parafarmacie Italiane. Adesso gli ultimi 5 minuti li dedichiamo ad un altro problema ben grave nel nostro paese, cioè la stretta del credito a danno delle imprese. Allora, abbiamo 4 minuti di tempo, ma ci bastano assolutamente per approfondire un altro tema che per la verità è oggetto di approfondimenti di questa trasmissione molto molto frequentemente, ma evidentemente bisogna vigilare con grande attenzione. Io, sapete bene, sono su un'altra trasmissione, Salva Danaio, e da settimane ci occupiamo delle difficoltà che molte famiglie hanno ad ottenere un mutuo immobiliare da parte della banca. Le banche sono in una semi-situazione di credit crunch, quasi come quella che hanno vissuto al culmine della crisi nell'autunno del 2008, e adesso ci risiamo di nuovo. Mancano i soldi, le banche stanno chiudendo i bilanci, non hanno soldi da erogare né per le famiglie ma neanche per le imprese. Questo è testimoniato da molti monitoraggi che i distretti industriali stanno facendo, le varie Confindustrie locali, e questo è quanto stabilisce anche un monitoraggio fatto da Confindustria Vicenza. Luciano Vescovi, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega per la finanza, buonasera. Buonasera, dottoressa Rosciani. Allora, banche sempre più rigide, ma questo ormai lo sappiamo, soprattutto oltre al fatto che dicono no, quando erogano il credito lo fanno a condizioni variabili di giorno in giorno. Magari, che ne so, un imprenditore va alle condizioni per ottenere un fido, un finanziamento per l'appunto, magari pattuisce delle condizioni, il giorno dopo quando va a firmare queste condizioni peggiorano notevolmente. Insomma, qual è il monitoraggio che avete fatto a Vicenza, che probabilmente può rappresentare anche la situazione di molti altri distretti industriali italiani? Ma noi abbiamo voluto riprendere uno studio che era concluso a settembre e abbiamo fatto un'ulteriore indagine su le aziende che avevamo intervistato a settembre, e a novembre risulta una situazione purtroppo molto cambiata, con un aumento soprattutto negli spread sui finanziamenti a medio termine che si è tradotto quasi in un raddoppio di questi spread. Quindi se a settembre le aziende potevano contrarre mutui con spread attorno al 2,50%, oggi siamo al 4,50, 5% e così via. Quindi abbiamo avuto una situazione di, diciamo, stretta creditizia nei fatti, nel senso che con un aumento così significativo l'imprenditore decide poi di non andare a chiedere il credito. E dove va l'imprenditore che non riesce ad ottenere un credito dalla banca, dottor Vescovi? No, il problema è che in questo momento riduce gli investimenti, e sui segnali sulla riduzione degli investimenti sono evidenti, cioè anche in un'altra analisi che abbiamo fatto di recente, abbiamo che oltre il 50% delle aziende non prevede investimenti nei prossimi 12 mesi. Questo è il frutto evidentemente dell'impossibilità poi di sostenere livelli di tassi di interesse così alti, perché le marginalità non consentono poi di ripagare mutui con questo tipo di interessi. Questa è una situazione che vale per tutte le imprese che operano sul vostro territorio? C'è una, come dire, dimensione precisa che soffre un po' di più, proprio come dire un livello dimensionale di impresa che soffre un po' di più rispetto ad un'altra, che magari ha meno margine di trattativa con la banca? Sì, soprattutto diciamo che la differenziazione oggi è tra le aziende che hanno una vocazione all'export e hanno una, diciamo, un mercato estero rispetto a quelle che devono vivere del mercato italiano. Il mercato italiano è in contrazione, in effetti, quindi chi ha sbocchi all'estero riesce ancora a avere diciamo, numeri e avere numeri da presentare alle banche e avere progetti per gli anni prossimi concreti. Chi invece lavora solo sul mercato italiano evidentemente è molto più limitato. Avete la sensazione che questa tendenza potrà continuare ad aumentare, che gli spread, quindi questo ricarico che la banca fa sui prestiti erogati, possano continuare appunto ad aumentare? Dottor Vescovi, tra l'altro, guardi, le racconto anche di questa iniziativa che ho appreso oggi. Una banca italiana addirittura sta proponendo in questo momento finanziamenti per aiutare le piccole e medie imprese a pagare la tredicesima ai propri dipendenti. Questo lo dico, è Banca Sella che l'ha fatto, perché mi ha davvero incuriosito molto questa novità sul mercato del credito che è arrivato. Ma piuttosto che, quindi i soldi insomma ce li hanno le banche evidentemente per finanziare le imprese, che dice? 10 secondi. I soldi in parte ci sono, il problema è che vengono venduti a un prezzo altissimo ormai. Ecco, e quindi è questo che è insostenibile. Dottor Vescovi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona serata. Focus Economia termina qui, domani ritorna con voi l'amatissimo Sebastiano Barisoni. Io ringrazio Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza e la collaborazione in redazione, Paolino Corleone invece in assistenza tecnica. Noi ci sentiamo invece domani a Salva Danaio. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.